Siamo con Riccardo Frolloni, direttore di Spazio Letterario, che gestirà gli appuntamenti del Biogra Book. In pratica saranno due giornate, due pomeriggi e sera, l'11 e 12 giugno in Piazzetta Pasolini a Bologna. Allora Riccardo, innanzitutto grazie di aver accettato di scambiare due chiacchiere con noi e raccontaci un po' meglio che cos'è questa iniziativa dell'11 e 12 giugno. Intanto grazie Sergio, per me è un piacere. Allora, l'11 e il 12 giugno ci sarà il Biogra Book, che è una sorta di manifestazione all'interno del più grande e più noto, naturalmente, Festival Biogra Film. La prima volta che il Biogra Film organizza questo evento, insomma, questa manifestazione, cioè il Biogra Book, dove diverse librerie indipendenti si riuniscono in Piazzetta Pasolini e si presentano e organizzano insieme a noi come ente organizzativo, cioè lo Spazio Letterario, organizziamo degli incontri, delle serate con degli autori e in questi due giorni, appunto l'11 e il 12 giugno, abbiamo alcuni autori di un certo spessore. Sabato 11 abbiamo Giulia Serughetti alle 16, poi abbiamo Filippo Tuena alle 18 e alla sera invece Nicola Scaffai con i racconti del Pianeta Terra, che è un raccolta di racconti, lui è un professore universitario di Siena. Mi sembra che la prima giornata sia dedicata primariamente alla narrativa. Sì, assolutamente. E invece la seconda giornata è più diversi generi, perché abbiamo Valerio Magrelli, che è poesia, ovviamente il poeta, con il suo ultimo libro uscito per Einaudi, Ex Fantia, e poi invece c'è il gruppo Booming, che parlerà di letteratura e politica, sostanzialmente lotta. Praticamente l'appuntamento maggiormente di richiamo è quello con Valerio Magrelli, che è uno dei maggiori poeti italiani, che presenterà il recentissimo Ex Fantia, perché io non l'ho mai sentito questo titolo, quindi deve essere proprio molto recente. Sì, è di qualche, è uscito un paio di mesi fa, ecco. È un libro che ha fatto tra l'altro parecchio scalpore, perché Magrelli cambia anche di molto la sua poetica ed è secondo me molto interessante ascoltarlo. E invece poi alla sera del 12 giugno ci saranno dei poeti attivisti. È un collettivo, Booming, molto famoso, che scrive libri di narrativa ma anche di riflessione intorno alla lotta, alla resistenza, quindi sarà più un discorso tra letteratura e politica, tra letteratura e sociale. Soffermiamoci un attimo ancora sui tre narratori, Giulia Serughetti, Filippo Tuena e Nicolò Scaffai. Puoi raccontarci qualcosa di loro? Sì, Giulia Serughetti è un'autrice, è uscita da poco per Marcos y Marcos, ha scritto un libro interessante sull'amore, dove problematizza, diciamo così, tutti gli aspetti dell'amore contemporaneo, diciamo così, l'amore liquido. È recentissimo. Recentissimo è anche il libro di Filippo Tuena, che è un autore già affermato. Il nuovo libro si chiama La voce di Sibilla, è uscito proprio il 1 giugno, quindi qualche giorno fa, per Il Saggiatore. E questo è un libro più complesso, una sorta di prosimetro, un libro dove c'è poesia, dove c'è anche critica, direi, ed è una sorta di composito tra diverse forme letterarie per raccontare alcune biografie, ed è anche per questo che l'abbiamo scelto per il Biogra Book, perché appunto Filippo Tuena parlerà di alcune biografie illustri di autori grandi come Virginia Woolf, Joyce, Pound e non solo. E invece l'ultimo è quello delle 8, l'incontro delle 8 con il professore dell'Università di Siena, Niccolò Scaffai, che è un esperto di ecoletteratura, che ha raccolto, ha curato questa raccolta di racconti di vari autori italiani e stranieri, dove si cerca di indagare il rapporto invece tra letteratura e ecosistema. Credo che sia un libro molto importante, soprattutto oggi che si studia con più attenzione l'antropocene e il rapporto appunto tra letteratura ed ecologia. Quindi diamo appuntamento a chi ci ascolta l'11 e il 12 giugno, è ingresso gratuito immagino? Sì, assolutamente, ingresso gratuito, cioè ci sono dei bar, Piazza Pasolini immagino che la conosciate già. Sì, certo, ricordiamo che è dietro Porta Lame, è immediatamente dietro Porta Lame dove c'è la Cineteca. Sì, sì, troverete noi nelle librerie indipendenti di Bologna e non solo, che vi accoglieranno. Benissimo, ti ringrazio Riccardo. E ci sentiremo in una prossima occasione. Ciao. Grazie mille Sergio, grazie. Ciao.